Se capiamo queste cose, ci dà una mano quando studiamo il resto del libro, ok? Quindi, la prima cosa, chi è l'autore e quando fu scritto questo libro? In Daniele 1, versetti 6 e 7 dice: tra di loro c'erano dei figli di Giuda, e voglio aspettare un attimo. Forse vedrete i nomi diversi di quelli che sono scritti nella tua versione. Se avete la Nuova Diodati, questi nomi sono un po' diversi. Se avete la Nuova Riveduta, dovrebbe essere questi, ma sono le stesse persone. Ho scelto questo perché la Nuova Diodati ha traslitterato questi nomi dal ebreo. Questi sono i nomi in italiano, quindi se cercate in italiano, questi nomi li troverete. Se cercate gli altri nomi, sicuramente troverete anche quelli. Ma questo per aiutare, perché questo è un libro storico, queste persone veramente hanno vissuto durante questo tempo. Voglio che noi capiamo chi sono queste persone. Quindi, tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi, grazie, diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baltazar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. Quindi queste sono le persone che seguiremo almeno per i primi sei capitoli. Daniele, un figlio di Israele, un uomo che abitava a Gerusalemme nei tempi della caduta di Gerusalemme, e guarderemo un po' più tardi quando. Sì. Come? Sherry? Giuda. Giuda. Sì. Di Giuda. Ok, quindi diremo e vedremo anche un po' più dopo che il nostro attore è Daniele e vedremo chi è questo Daniele fra breve. Ok, quando fu scritto il libro di Daniele ci sono eventi storici che accadevano durante questo tempo che vediamo nel libro. C'è la caduta, questo è prima del libro, la caduta di Israele, il regno del nord, cioè nell'anno 706 avanti Cristo. Ok? Il regno del nord cadeva anche prima che quello di Giuda, era portato in cattività anche tante volte. E come mai? Sì, più alto, la voce più alto. Perché si era ribellato alle leggi del Signore, ai suoi statuti, ai suoi comandamenti. Sì, e quando il Signore ha dato la legge a Mosè, ha detto: se seguite questa legge, resterai nella terra per sempre. Ma il momento in cui voi disubbidite la legge, vi porterò in cattività. Dobbiamo ricordarci che è Dio che porta in cattività il suo popolo. Non è la volontà di qualcun altro, era la volontà di Dio. Nabucodonosor, anche un nome che forse non è quello che hai scritto davanti a te, ma Nabucodonosor, questo è il re di Babilonia, Nabucodonosor il secondo. Venne contro Gerusalemme 605 anni avanti Cristo. Questo era l'inizio della caduta di Giuda. 20 anni dopo lui tornerebbe e finirebbe tutto il suo lavoro. In 586 è la caduta di Gerusalemme. Quindi noi ci troviamo qui in questo anno, 605 avanti Cristo. Ok? Questo è quando Daniele era portato in cattività. Ok? 605 avanti Cristo. Altri eventi storici che sono profetizzati nel libro di Daniele, ci sono tantissimi, ma vedremo solo due. I quattro regni che verranno dopo, nei sogni di Nebuchadnezzar e poi più tardi con Belshazzar, noi vediamo questi quattro regni. Quali sono i regni? C'è Babilonia, Persia, Media, Grecia e i Romani, sì. Quello che per noi sembra che è il più importante. Ma, dopo tutti questi capitoli, subito dopo parla della venuta di Cristo. Daniele 2, Daniele 7, Daniele 9 parla di questa venuta che sarebbe un bel po' nel futuro da questo tempo, ovviamente 600 anni. E vedremo alcuni di questi versetti. Daniele 2, versetti 44 e 45 dice: al tempo di questo re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano, e spezzerà il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e è sicura è la sua interpretazione. Quindi parla anche della venuta di Cristo. Daniele 7, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio di uomo. Questo figlio di uomo è il titolo che Gesù preferiva più che altro. Figlio di uomo. E viene da questo capitolo qui. E rigiunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Poi Daniele 9:26, dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Chi è questo unto? È Gesù Cristo. Scusa, sì. Quando parla di vegliardo, siccome nella cultura ebraica è vietatissimo antropomorfizzare Dio, perché nella Sacra Scrittura viene detto vegliardo? Perché viene identificato Dio come un vegliardo? Possiamo parlare di questo dopo, ma queste sono le parole di Dio. Sì. Quindi se Dio voleva dire questo, non possiamo litigare con Lui, è inutile. Però sì, capisco, ma io dico che queste sono le parole di Dio e dobbiamo capire se Dio vuole descriversi così, va bene, Lui può fare come vuole. Quindi il libro... quando fu scritto il libro di Daniele, di nuovo, il libro contiene la profezia vera e fu scritto da Daniele nel sesto secolo avanti Cristo. Ci sono due opzioni, o questo o la profezia vera non esiste e fu scritto da qualcuno altro nel secondo secolo avanti Cristo. Quindi, queste sono le due opzioni che abbiamo. O c'è la profezia e ciò che leggiamo nel libro era veramente da Daniele, o non c'è profezia. E qualcun altro ha scritto questo molti anni dopo la vita di Daniele. Come mai diciamo questo? Perché tanti dicono oggi che è impossibile che Daniele poteva scrivere con così tanti dettagli tutte queste cose. È impossibile. Nessuno può dire le cose che succederanno nel futuro così precisamente. È impossibile. E tanti dicono così e guardano al libro di Daniele e dicono: non è vero. Qualcun altro ha scritto: questo non è profezia e storia, e dicono che quando arriviamo al capitolo 9, che parla solo di un uomo che abitava nell'anno quasi 280 avanti Cristo, quel periodo, o no, anche più, 400 qualcosa, si chiamava Antioco Epifaneo. Ma cosa dice la scrittura? Che Daniele ha scritto questo libro. Quando Cristo abitava sulla terra, parlava della profezia di Daniele, non di qualcuno nel secondo secolo, di Daniele. Quindi se Gesù Cristo diceva che questo era di Daniele, noi dobbiamo concludere uguale, che questo è Daniele, il uomo, il figlio di Israele che era in cattività nell'anno 605 fino a chissà quando, dopo il ritorno di Israele sicuramente, perché capiva di nuovo, capitolo 9, che il tempo di cattività stava per finire nel suo tempo. Quindi noi diciamo che questa seconda opzione è impossibile. Questo libro fu scritto da Daniele nel VI secolo avanti Cristo, quindi abbiamo profezia vera, non solo in questo libro di Daniele, ma in tutta la Bibbia. Quindi quando arriviamo alla profezia del futuro, che ancora sta avanti di noi, possiamo dire con certezza che è la parola di Dio, è la volontà di Dio e succederà nel futuro. Voglio quindi passare un po' di tempo per dire come funziona la profezia. Cos'è la profezia? Non sempre è così, ci sono le cose che succedono solo nel futuro, ma a volte abbiamo qualcosa così, che c'è qualche profezia che è stata data nel tempo passato e è stata realizzata parzialmente. Che diciamo, Daniele stava qui e stava guardando a questa profezia e ha visto questo. E è vero che qualcosa è successo che sembrava che era l'adempimento di quella profezia. Invece Dio intendeva questo qui, ma Daniele non poteva vedere quello. Vedeva solo questo perché questo era nel viso davanti a lui. Forse qualche esempio aiuterà. La profezia di Gioele, esempio di profezia, la profezia di Gioele è stata realizzata parzialmente quando? Il giorno di Pentecoste. E noi guarderemo quello. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Quindi questa è la profezia di Gioele. Okay? Quando arriviamo in Atti capitolo 2, Pietro dice cosa? Avrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi. Tutto questo farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E dopo questo Pietro dice, questo è adempito oggi davanti a voi. Ma dove? Questo è successo quel giorno? La luna in sangue, il sole sarà mutato in tenebre. È successo quel giorno? No. Quando arriviamo, Apocalisse 6, 12, guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo. E si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Succederà nel futuro, ma abbiamo anche nella Bibbia che una parte fu realizzata parzialmente, che questo a volte succede con la profezia. Quando noi vediamo una parte e diciamo, oh, veramente questo è il momento. Ma il Signore dice, sì, quasi, nel futuro, ma tutto sarà adempito. Ok? Questo è Gioele e Atti 2. Poi Salmo 22 e Matteo 27. Salmo 22 è stato realizzato nel tempo di Davide, nella sua vita. Tutto ciò che descriveva è successo nella sua vita, ok? Ma quando leggiamo Salmo 22, cosa vediamo? La morte di Gesù Cristo è stato adempito nella morte di Gesù Cristo. Quindi Salmo 22, 1 e 2, e Matteo 27, 46, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. E Matteo 27, verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è che Davide ha detto queste parole in vano. Ha detto perché sembrava a lui che Dio lo ha abbandonato. Ma quando è successo veramente? Con Gesù Cristo sulla croce. Salmo 22, 7, 8. Chiunque mi vede si fa beffe di me. Allunga il labbro, scuote il capo dicendo egli si affida al Signore. Lo liberi, dunque lo salvi, poiché lo gradisce. Poi Matteo 27 di nuovo. Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto, sono figlio di Dio. Quindi è stato adempito nella morte di Gesù Cristo, ma non significa che Davide non sentiva così. Significa che quando Dio ha ispirato quel salmo, aveva qualcosa più grande in mente che solo la vita di Daniele. Quindi la profezia funziona a volte così, a volte no, a volte è chiaro, è successo a questo punto in storia o succederà a quel punto e solo quel punto. Quando arriviamo alla profezia di questo libro, vogliamo tenere in mente quest'idea, ok? Perché ci saranno diverse cose che tanti dicono, guarda, è stato adempito qui, ma noi possiamo dire, forse parzialmente, ma no, succederà a questo punto, come Dio ha detto. La prossima volta, problemi con la storicità. Questo... Ho passato più tempo studiando questo che tutte le altre cose. Prima, cosa vuol dire la storicità? Questa è una parola che voi usate spesso? No. Ok. Dizionari.corrieri.it dice che la storicità è carattere e pertinenza storici. 1. 2. Carattere di ciò che è storicamente verificabile o realmente accaduto. Quindi storicità si tratta delle cose che possiamo vedere nella storia. Questo è successo. Ok? Quindi noi studiamo la Bibbia. Ogni cosa che dice è successo. Non ci sono problemi con la storicità, no? Ci sono le cose che dobbiamo guardare. Ogni parola è vera, ok? Cosa vuol dire la storicità? Abbiamo visto, voglio dire che ogni problema ha una risposta. Anche se non la sappiamo, la Bibbia è sempre affidabile in ogni cosa. E noi sentiremo da tanti che ci sono problemi nella Bibbia. Ci sono le cose che sembrano che siano dei problemi, ma in realtà non sono problemi nella Bibbia. Con questo in mente, quali sono i problemi nel libro di Daniele? Ce ne sono due che noi guarderemo stasera. La prima è quando venne il re Nabucodonosor contro Gerusalemme, e vedremo questi versetti. E la seconda, chi è Dario il Medo? Problema 1. In quale anno comincio a regnare Nabucodonosor? Daniele 1.1, Geremia 25.1 dicono due diverse cose. Okay? Daniele 1.1. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Okay? Il terzo anno del regno di Joachim. Geremia 25.1, ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Qual è vero? Terzo anno, quarto anno? Daniele dice terzo anno, Geremia dice quarto anno. Cosa è la verità? C'è una risposta. Risposta 1. È un problema di calendari. Ok? Noi parliamo, i giudei contavano dal primo giorno del regno. Quindi se io comincio a regnare oggi, primo anno, oggi. Comincia oggi, primo anno. Ma i babilonesi contavano dal primo giorno del secondo anno. Un anno di accessione. Quindi, oggi non è il primo anno del mio regno. Anno 2 è il primo anno. Ok? Quindi, quando parliamo di Daniele, lui usava il calendario di Babilonia. Ok? Quindi era il terzo anno che Nabucodonosor cominciò a regnare. Terzo anno di Joachim. Geremia invece usava il calendario di Giuda, quindi il quarto anno non c'era quest'anno di accessione. Okay? Quindi quando leggiamo la Bibbia c'è sempre una risposta giusta. E anche la seconda, noi vediamo qualcos'altro. Problema 2, chi è Dario Irmedo? Il problema non c'è nessun Dario in qualsiasi documento dell'epoca. L'unico posto che troviamo questo nome è nella Bibbia è un fatto che Ciro era il re di Persia a questo punto nella storia. Quindi chi è Dario? Ce n'erano quattro uomini con questo nome nella storia che noi sappiamo. Nessuno di quelli quattro è questo Dario. Chi è? Se noi possiamo dire con certezza che Ciro era il re di Persia a questo tempo, come mai la Bibbia parla di Dario? La risposta cronaca di Nabonido dice che Ciro non usava il titolo re di Babilonia nel suo anno di accessione. Quindi quando un re venne contro una città, ha preso il titolo re di quello. Con i persiani, dal secondo anno Ciro usava re di Babilonia e tutto il mondo di Persia. Ma nel primo anno non diceva così. Quindi è possibile che un vassallo regnava nel posto di Ciro finché lui venne a regnare a Babilonia, che lui metteva qualcun altro nel suo posto solo a Babilonia. E quest'uomo, e tanti dicono che è possibile che quest'uomo è infatti, ce l'ho scritto qui, un attimo, non si chiamava neanche Dario, ma che vede in Dario un secondo nome per Gubaru, il re nominato da Ciro per governare la parte babilonese del suo impero. C'era questo generale nel suo esercito che andava con lui e Ciro ha detto: questo è il tuo compito. Tu sarai il re di Babilonia per questo tempo. Ma dal secondo anno Ciro venne e regnava a Babilonia. Quindi anche se c'è un problema così che non c'è una risposta ovvia, possiamo sempre dire, anche se non sappiamo la risposta, che la parola di Dio è vero. Forse non era un vassallo, forse Ciro ha preso un altro nome per Babilonia. Non sappiamo con certezza. Sappiamo che c'era qualcuno che si chiamava Dario Irmedo che regnava a Babilonia durante questo tempo. E un giorno forse sapremo la verità. Forse no. Il Signore non deve dirci nulla, ma era così, come mai? Perché la Bibbia dice così e noi possiamo sempre affidarci dalla Bibbia, sempre. Ogni parola è vera, ogni parola è giusta. Non ci sarà più problemi con la storicità, non per noi comunque. Il tema del libro: Dio è sovrano su tutte le cose ad ogni momento. Anche se non sembra così a noi, a volte è sempre così. Noi vedremo in questo libro la mano di Dio in ogni cosa, che Lui sta controllando ogni cosa che stava succedendo. Daniele 1:2, il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli eredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli eredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Dio dava i giudei nella mano di Nabucodonosor. Non è qualcosa che è successo e Dio stava dormendo e non sapeva cosa stava succedendo. No, questo era suo programma. Questo era la volontà di Dio, che i giudei andavano in cattività proprio a quel momento, nel mano di questo re Nabucodonosor. Non voleva che un altro re veniva contro Gerusalemme, voleva Nabucodonosor. E quindi è successo così. Daniele 1:9. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questa parola mi darà fastidio ogni volta. Anche in questo, che vedremo la prossima volta, Dio stava in controllo ad ogni momento. Daniele 2:19. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo. Quando arriviamo a questo punto col sogno di Nabucodonosor, che sembrava una domanda impossibile, che nessuno poteva dirlo cosa sognava. Era impossibile. Anche in questo Dio era in controllo. Stava facendo la sua volontà per portare i suoi, in questo caso Daniele, ad una posizione che non aveva. Senza la mano di Dio, Daniele non fosse arrivato a quella posizione. Era impossibile, non era babilonese, era ebreo, quindi non aveva nessun diritto di avere quella posizione. Ma Dio controllava ogni cosa, come lo fa anche oggi. L'elenco del libro, lo schema del libro, i primi sei capitoli, la sovranità di Dio nelle vite degli individui, cioè Daniele e i suoi amici, poi gli ultimi sei, la sovranità di Dio sulle nazioni, presente e futuro. In ogni cosa vedremo la sovranità di Dio, perché questo è ciò che troviamo in questo libro. Per questo motivo abbiamo questo libro nella Bibbia, per farci capire che Dio è sovrano sopra tutto. E qui arriviamo a capitolo 1. Daniele 1, primi quattro versetti, la sovranità di Dio e la preparazione dei figli di Israele. E leggiamo insieme. Nel terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede nelle sue mani Joachim, il re di Giuda, assieme a una parte degli utensili della casa di Dio che egli fece trasportare nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e depose gli eredi nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse quindi ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli alcuni dei figli di Israele, sia di stirpe reale che di famiglie nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bel aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e rapido intendimento, che avessero abilità di servire nel palazzo del re e ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei Caldei. La sovranità di Dio e la preparazione dei figli di Israele. Daniele 1:1-4, la prima cosa che vediamo è la sovranità di Dio e la venuta di Nabucodonosor, che Dio era anche sovrano su questo. Dove fu Nabucodonosor prima che venne contro Gerusalemme? Secondo storia, andava in Egitto per combattere loro, e quando tornava da Egitto è passato per anche Gerusalemme. Come mai? Perché i giudei avevano un'alleanza con gli egiziani. Quindi, avendo catturato tutto Egitto, tornava a finire il lavoro e venne contro anche Gerusalemme. Come mai? Secondo Re 24 dice: al suo tempo venne Nabucodonosor, re di Babilonia, e Joachim gli fu soggetto per 3 anni. Poi tornò a ribellarsi. Joachim, quando è venuto il re, ha detto: va bene, ti seguirò, ti ascolterò. Ma dopo 3 anni tornò a ribellarsi contro Nabucodonosor. Quindi, se noi capiamo qualsiasi cosa dei re, non gli piace questo comportamento. Vogliono che tutti ubbidiscano. Joachim aveva 18 anni quando cominciò a regnare e regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Neusta, figlia di Elnatan, da Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come aveva fatto suo padre. In quel tempo i guerrieri di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme e la città fu assediata. Non solo perché lui non seguiva il re Nabucodonosor, ma anche il suo figlio che regnava dopo fece ciò che è male agli occhi del Signore. Quindi il Signore diceva: basta. Come ho detto, se mi seguite tutto andrà bene, ma quando smettete a seguirmi, ti porto in cattività, vi porto in cattività. Quindi era tempo a questo punto, e il Signore portò Nabucodonosor a Gerusalemme per fare la sua volontà. Secondo Re 24:13, come il Signore aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa del Signore, i tesori del palazzo del re, e frantumò tutti gli utensili di oro che Salomone, il re di Israele, aveva fatti per il tempio del Signore. Quindi il Signore faceva tutto questo. Era sua volontà. Abbiamo qualche mappa a questo punto. Il regno di Babilonia a questo tempo andava da Egitto. Tutto questo territorio, questa zona, fino a Golfo Persico. Qui questo era il regno dei Medo. Quindi tutto questo era Babilonia. Poi abbiamo il percorso degli ebrei, che a questo del nord, questo percorso che andava qui fino a là, ma da Gerusalemme andava del nord e andava così, questa linea arancione che arrivava qui a Babilonia o qui a Nippur, questa zona precisamente dove fu Babilonia a quel punto, non possiamo dire precisamente, ma era in questa zona qui. Poi un disegno di Babilonia di quel tempo. C'è il tempio qui, c'è la porta a Ishtar, qui, che tutti entrava tra quella porta. E si può vedere anche quello oggi, mi sa, a Berlino adesso, hanno fatto un po' di lavoro per quello. Quindi questo è un disegno della città in quel periodo. La sovranità di Dio e la venuta di Nabucodonosor. Dio era sovrano sulla venuta di Nabucodonosor. Era il suo programma, la sua volontà. Ma anche era sovrano sull'educazione dei figli di Israele. Preparava questi quattro, soprattutto, precisamente per questo tempo. Quindi, Daniele 1 a... versetto 3, il re disse quindi ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli alcuni dei figli di Israele, sia di stirpe reale che di famiglie nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e rapido intendimento, che avessero abilità di servire nel palazzo del re e ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei Caldei. Questi tre, quattro figli di Israele, primo, vennero dalle famiglie nobili. Loro non avevano nessuna scelta. Non potevano dire, io voglio stare nella casa di un uomo importante. Nella casa, a Gerusalemme, proprio a Gerusalemme, con genitori importanti. Non potevano dire nulla. Dio invece ha messo questi quattro nelle famiglie importanti, molto importanti. E quando il re di Babilonia, cioè Nabucodonosor, venne contro Gerusalemme e ha portato i figli delle famiglie importanti, ha portato anche questi quattro uomini, giovani, diciamo, avevano probabilmente fra 10 e 15 anni a questo punto. Non erano così grandi a questo punto, ma la loro preparazione era grande, era importante. Vennero dalle famiglie nobili, furono intelligenti e belli. Una di queste cose si può controllare un po'. L'intelligenza si può studiare, può leggere, può fare alcune cose, ma la bellezza o siamo belli o siamo brutti, mi dispiace, ma non possiamo fare nulla. Questo è tutto da Dio, anche se siamo brutti e il suo programma per noi è buono. No, non c'è un problema con quello. Furono intelligenti e belli. Come mai? Prepararsi per questo momento in cui Nabucodonosor direbbe voglio questo tipo di persona, e solo questo tipo di persona. Furono capaci di comportarsi bene ed imparare. Se per noi che abbiamo dei figli, questo viene solo da Dio, perché è cosa che non è naturale, che i figli si comportano bene sempre, che imparano sempre. Io, la mia figlia, anche altri nella famiglia, vanno a scuola adesso soprattutto per imparare la lingua, perché devono capire la lingua per abitare e vivere qui in Italia. Ma non vogliono. Quindi, anche se sono capaci, la voglia deve essere lì, devono avere la voglia, almeno. Questi quattro avevano quella voglia. Come mai? Perché Dio aveva un lavoro importante per loro. e preparava questi quattro proprio per andare nel palazzo del re di Babilonia. In ogni passo noi possiamo vedere la mano di Dio nella loro vita. E quando arriviamo a questa prima prova in capitolo 1 con il cibo, sono pronti. Quando arriviamo a capitolo 2 con il sogno del re, lui è pronto. Quando arriviamo al terzo capitolo e quando furono gettati nel fuoco, erano pronti. Come mai? Perché Dio preparava questi quattro per essere qui, per essere una testimonianza al re di Babilonia, che loro avevano la capacità di parlare proprio nel palazzo con il re del mondo a quel punto, che era l'uomo più importante che abitava sulla terra a quel punto. Furono capaci di comportarsi bene e di imparare. Quindi, se questo è tutto vero, e vi dirò, è la verità, cosa dobbiamo imparare? Come applichiamo questo alla nostra vita? Ho pensato di due cose, soprattutto Dio è sovrano su ogni cosa che sta succedendo nella tua vita. Non è che Egli solo permette le circostanze, ma che Egli ha scelto quelle circostanze per te. Ogni cosa che sta succedendo nella tua vita, Lui ha scelto per te. Proprio per te. Quando diciamo che la nostra vita è più difficile di quella di qualcun altro, noi ci lamentiamo e parliamo contro Dio. Quando noi cominciamo a cosa? Confrontarci agli altri. Cosa stiamo dicendo? A Dio non sa cosa sta facendo. Perché per me ha scelto questo, ma per lei, guarda la sua vita, è perfetta, io voglio quella vita. No. Dio è sovrano su ogni cosa e ha scelto ogni cosa che ci serve in questa vita. La tua vita è perfetta per te, non per qualcun altro. Gioisci nella vita che Dio ti ha dato. La vita degli altri è perfetta per loro. Loro devono gioire nella vita che Dio gli ha dato. Lamentarci di quanto sia difficile la vita è peccato. Chiediamo perdono oggi e smettiamo di farlo. Smettiamo di confrontarci con gli altri. Guardiamo alla nostra vita. Cosa Dio vuole che noi impariamo? Cosa Dio vuole che noi facciamo? Forse è vero, la tua vita è più difficile della vita di qualcun altro. È possibile. Ma non c'entra. Dio vuole che tu fai ciò che è giusto per te. E che non ti preoccupare con le cose degli altri. Dio anche ti ha preparato per la tua vita nel modo giusto e perfetto, come i figli di Israele furono preparati, tu sei preparato per la tua vita. Non guardiamo alle vite degli altri, Dio ci ha preparati per la nostra vita e vuole che noi rimaniamo fedeli alla sua volontà per noi. Non preoccupiamoci della sua volontà per gli altri. Noi siamo responsabili per noi stessi e nessun altro. Quando guardiamo al mondo e tutti che abitano vicini, Non guardiamo alla loro vita e diciamo, oh, sarebbe bello avere quella vita. Diciamo, grazie Signore per ciò che mi hai dato. Grazie perché tu mi hai preparato per questo momento e so che adesso tu stai lavorando nella mia vita. E so che alla fine di questa prova sarò più come Gesù Cristo. Sarò più pronto, più capace a servirti. Se Dio è veramente sovrano, la nostra vita non è per caso. Le nostre prove non vengono perché ho fatto questo, vengono perché Dio vuole insegnarci qualcosa. Quando vengono le prove, e come abbiamo già visto nel nostro studio di Giacomo, le prove vengono. Questo non è una domanda, questa è la verità. Le prove vengono, sicuramente. Siamo preparati per queste prove. Se noi crediamo a Dio che Lui è fedele a fare ciò che ha detto che Lui farebbe, dobbiamo capire questo. Lui non porta nessuna prova che è troppo per noi se lo seguiamo. Perché? Cosa ha detto? Tra Paolo, Filippesi 4, noi, questo non è qui sullo schermo, ma Filippesi 4, Filippesi 4. Cosa ha detto Paolo? Io posso ogni cosa in Cristo. Ogni cosa. Se Dio porta qualche prova nella nostra vita, in Cristo Gesù, possiamo superarlo. Perché? Perché Lui è fedele. E Lui è sovrano. Quindi non, niente succede per caso, niente succede perché lui non può fermarlo. Niente succede perché qualcun altro ha detto voglio che questo succeda e Dio non poteva fermare quella cosa. La sovranità di Dio, studieremo questo per un bel po' di tempo. Magari è un tema che è interessante per voi? Ma anche qualcosa che ci aiuterà a seguire Gesù Cristo oggigiorno. Perché questo libro non è solo storia, non è solo qualcosa che è successo 2600 anni fa, è qualcosa che Dio continua a fare ogni giorno. Lui continua a controllare ogni cosa. E questo dovrebbe darci gioia, perché noi conosciamo il Dio di tutto e noi conosciamo, sappiamo che la sua volontà è perfetta. Credete questo stasera? Se è la verità che Dio è in controllo e che Lui è sovrano e che Lui fa ciò che è bene, è buono, è giusto, lo serviamo ogni giorno. Ok? Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questo libro che possiamo leggere, che possiamo studiare, che possiamo vedere la tua mano nella storia di questi quattro figli, uomini, ma anche nella nostra vita. Aiutaci a crederti in ogni cosa. Aiutaci a seguirti. Aiutaci a capire bene la nostra vita e che tu ci hai preparato per ciò che porti ogni giorno. Ti preghiamo che in ogni cosa ti lodremo in questa vita e che tu sarai nostra rocca, nostra difesa, nostro Dio. ogni giorno, che tu avrai quel posto che è veramente tuo. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo.